dicembre 1969, Giuseppe Pinelli. Accusato della strage di Piazza Fontana, Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, venne condotto nei locali della questura di via Fatebene Fratelli a Milano poche ore dopo lo scoppio della bomba. Trattenuto oltre i limiti consentiti dalla legge, precipitò dopo molte ore di interrogatorio dal quarto piano il 15 dicembre del 1969. Dopo anni di indagini, accertata la sua innocenza, il suo omicidio venne mascherato con l'originale definizione, in sentenza definitiva, di malore attivo. Nonostante le contraddizioni dei resoconti forniti dagli agenti che erano stati presenti all'interrogatorio e dei dirigenti della questura, si è voluto negare la oggettiva responsabilità della sua morte. Giuseppe Pinelli è la 18ª vittima di Piazza Fontana.